Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Il diritto all'educazione non può essere compromesso dalla disabilità, dovrebbe essere questo il punto di partenza per la scuola pubblica e noi avremmo preferito non usarlo il condizionale, ma come vedremo nel corso di questa puntata, di strada da fare ne abbiamo ancora molta e la dobbiamo fare tutti assieme e questo deve essere ben chiaro. Quello che abbiamo vissuto nei giorni del lockdown ha messo in luce qual è la realtà dei fatti. Martina Fuga dell'associazione Cordown. Il bilancio di questi mesi non è molto positivo. Quello che noi abbiamo rilevato da famiglie e dalle associazioni che rappresentiamo è indubbiamente un momento molto faticoso sia per gli alunni che per le famiglie e soprattutto un momento in cui le disuguaglianze sono andate ad acuirsi. Anche i dati dei primi sondaggi che sono stati fatti sono decisamente drammatici. Ci restituiscono un quadro in cui un alunno su tre con disabilità è di fatto escluso dalla didattica a distanza. Da una parte perché la didattica a distanza si è rivelata inefficace e dall'altra perché in alcuni casi non è stata nemmeno ipotizzabile e si parla di un 36,5%, quindi un numero altissimo. Gli altri alunni appaiono mediamente integrati, ma quello che noi rileviamo è anche un grande carico sulle famiglie e questo non fa che ancora una volta acuire le disuguaglianze, perché chi non ha a fianco famiglie in grado di sostenere l'alunno, sia per ragioni di competenze, sia per ragioni sociali, sia perché i genitori sono impegnati al lavoro, questi alunni vengono lasciati indietro. Quindi quello che noi in questo momento su cui dobbiamo concentrarci è proprio capire come andare a portare scuola agli alunni che abbiamo lasciato indietro in questo momento. Un inizio un po' difficile, abbiamo cominciato a collaborare con il Ministero dell'Istruzione, abbiamo cercato di entrare in contatto con loro e di dare il nostro contributo. Quando è stato istituito il tavolo tecnico del Ministero dell'Istruzione per l'inclusione scolastica, noi come Cordown ci siamo attivati per segnalare che nessun esperto di disabilità intellettiva era stato coinvolto. Abbiamo chiesto di poter dare il nostro contributo, perché ovviamente le procedure, i protocolli che si possono definire per il rientro a settembre per gli alunni non valgono per tutti, insomma era importante che degli esperti di disabilità intellettiva potessero dare delle indicazioni. Di come si tornerà sui banchi a settembre si parla molto nelle famiglie, soprattutto quelle con esperienze così tanto faticose alle spalle. Stefania Massimino a Catania non solo è la mamma di una ragazza con disabilità intellettiva che va alle superiori, ma è anche una delle persone più attive sul territorio siciliano nell'ambito dell'associazione Famiglie e Persone Down. A lei si sono rivolti in molti. Ci siamo sentiti veramente degli invisibili, è stata un'esperienza disastrosa. I nostri ragazzi sono abituati al rapporto fisico, e sono abituati alla relazione con i compagni, per loro questo è di fondamentale importanza e ovviamente per loro è stato un trauma. Le immagini che per molto tempo, molte settimane, mia figlia era convinta di essere malata, perché le uniche volte in cui lei è rimasta a casa era quando appunto stava male. Ovvio che questa modalità per i nostri ragazzi è assolutamente inaccettabile, perché poi alla fine c'è anche da considerare che il carico di tutto quello che viene dopo, quindi di continuare, cade esclusivamente e solo sulle spalle dei genitori, delle madri in particolare. La scuola, con tutti i limiti che essa rappresenta, l'unico momento di socializzazione per i nostri ragazzi. Cioè, la didattica a distanza non può assolutamente funzionare. Il rapporto con la classe si è assolutamente annullato. Cioè, i collegamenti con i ragazzi sono di tipo individuale. Qualcuno direbbe, certo, per forza, perché molti di loro hanno, diciamo, un percorso differenziato. Ma in questi casi l'insegnante di sostegno avrebbe dovuto in qualche modo lavorare in tal senso, e questo lavoro non c'è stato. Come pure molti hanno inteso questa modalità come una mera assegnazione di compiti da fare a casa. I collegamenti sono stati brevissimi e quindi questo ha determinato il fatto che si è assolutamente, come dire, annullata questa la relazione con la scuola. La situazione non è diversa anche in altre regioni. Ottilia Vagliano è uno dei genitori che ha raccolto le preoccupazioni e le storie di molte famiglie in Campania. Come è andata in Campania, in particolare dal mio punto di osservazione che è spostato più verso la provincia di Salerno? All'inizio è stato veramente difficile, come del resto per tutti. In una prima fase ci sono stati problemi anche di apparecchiature, di armi, hardware che non si disponevano, ma in realtà questo primo gap è stato felicemente superato, perché in maniera sufficientemente tempestiva, diciamo, più o meno tutti, ragazzi, studenti scolari e studenti con disabilità e non, sono stati forniti da questo punto di vista. Poi vi è stata la fase successiva di coinvolgere effettivamente gli studenti, in particolare gli studenti con disabilità, in questa didattica a distanza. Qui è necessario fare una differenziazione sia tra ordini e gradi delle scuole, sia all'interno del mondo della disabilità, perché è chiaro che con la scuola primaria il coinvolgimento è di tipo un po' più emotivo, mentre crescendo, andando avanti, agli studenti, anche a quelli con disabilità, oltre ad un coinvolgimento di tipo relazionale, si richiede anche un coinvolgimento che riguardi la didattica e quindi il trasferimento delle conoscenze vere e proprie. Sicuramente con la didattica a distanza tutto questo è difficile. Abbiamo poi registrato un po' una carenza generalizzata per quanto riguarda l'assistenza specialistica, che è quasi mancata del tutto. E poi un altro aspetto che bisogna mettere in evidenza, che tutte le riunioni, quindi GLH, l'aggiornamento del PEI eccetera, farlo a distanza è diventato un po' più difficile, tant'è vero che ancora oggi, alla data attuale, non sono stati convocati GLH e non si sono aggiornati i PEI. Il GLH è l'acronimo di Gruppo di Lavoro Handicap. La dicitura è ancora ferma nel tempo, ma di fatto questo è davvero uno strumento importante. Prevede per ogni alunno con disabilità iscritto a scuola che si formi un gruppo di lavoro formato da dirigente scolastico e da consiglio di classe. Cioè, il messaggio è: si lavora tutti col bambino, col ragazzo con disabilità, non solo l'insegnante di sostegno. Sulla carta questa cosa andava portata avanti anche in tempo di lockdown, ma nella realtà abbiamo visto che in molti casi non è andata così. La più forte ora è dunque su settembre, quando la scuola riaprirà, come ben spiega ancora Stefania Massimino. Bisognerebbe, come dire, attivare la domiciliarità, quindi la possibilità che qualcuno venga a casa e quindi conservi questa relazione. Occuparsi ovviamente che tutti abbiano gli strumenti adatti per poter effettuare diciamo i collegamenti, che, come dicevo prima, in molte famiglie mancano, la connessione che dovrebbe essere ottimale, le cose che ruotano, ma soprattutto quello che conta è il rapporto fisico, l'affettività. Quindi, come vede, cioè, la didattica a distanza non può assolutamente funzionare, e le famiglie sono molto preoccupate per questo, moltissimo, perché riaprire la scuola con questa modalità, guardi, veramente, le ripeto, significa tornare indietro Circa il 3% degli alunni che frequentano le scuole italiane, da quelle per l'infanzia alle superiori, è portatore di una disabilità. Bambini e ragazzi che proprio come i coetanei hanno diritto a frequentare la scuola. Si parla di più di 260.000 studenti. Cosa si pensa di fare ora, in prospettiva? Cosa hanno chiesto le associazioni al Ministero dell'Istruzione? Ancora Martina Fu. Ministero ha ascoltato le nostre segnalazioni e ci ha convocato e abbiamo avuto un'audizione, abbiamo potuto presentare dei suggerimenti e delle indicazioni per il rientro a settembre. In primis ho chiesto che per garantire la tutela dei diritti degli studenti con disabilità intellettiva, se la riapertura a settembre prevede delle turnazioni, gli alunni con disabilità potessero avere una presenza costante a scuola, questo per favorire al massimo, oltre che la didattica, anche la socializzazione. L'altro elemento importante è quello di definire gli organici del personale docente e di sostegno già nel periodo estivo, affinché i ritardi non vadano poi a interferire negativamente sull'avvio dell'organizzazione delle attività didattiche. Un'altra delle nostre proposte è che alla ripresa della scuola si potesse lavorare anche nella modalità di didattica a distanza, qualora dovesse continuare, in piccoli gruppi, in modo da contrastare l'isolamento e agevolare la socializzazione e la didattica. Una sorta di piccole cordate che potessero garantire il supporto agli alunni da parte dei compagni. Da mamma di tre figli, di cui una con disabilità, Emma ha la sindrome di Down, l'idea che mi sono fatta è di una scuola a distanza abbastanza difforme, cioè io di tre figli ho esperienza di tre scuole a distanza, quindi la cosa mi colpisce molto, significa anche che le indicazioni date dal sistema scuola non sono univoche, i ragazzi hanno usato strumenti diversi, alcuni insegnanti hanno fatto video lezioni, alcuni no, alcuni hanno solo inviato compiti, alcuni hanno proposto invece sostenuto le relazioni attraverso strumenti informali come WhatsApp, il telefono. Insomma, credo che la scuola avrebbe dovuto dare delle indicazioni molto forti. Allo stesso tempo non possiamo non sottolineare che ci trovavamo in una situazione di emergenza, quindi tutti hanno fatto del loro meglio. Io ho venuto a galla le debolezze del nostro sistema scolastico, cioè una scuola fondata sulle lezioni frontali, molto nozionistiche, con l'ossessione dei programmi ministeriali da portare a termine, come la nostra scuola italiana, non può reggere l'impatto della scuola a distanza. Per il resto penso che le cose che non funzionavano prima non funzionino nemmeno ora e le cose che invece funzionavano con qualche aggiustamento e compromesso continuano a funzionare, cioè gli insegnanti che sapevano coinvolgere gli alunni in classe sono gli stessi che riescono a coinvolgerli oggi con un messaggio, con una video lezione, che si sono reinventati in qualche modo, che hanno trovato strategie efficaci per portare la scuola anche a distanza. Gli alunni, gli insegnanti che si mettono in discussione ogni anno a seconda della classe che hanno di fronte sono gli insegnanti che non lasciavano indietro nessuno e quegli insegnanti non si sono dimenticati dei loro alunni nemmeno durante il lockdown. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a 2didenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Salve, sono Alberto e frequento la scuola a distanza. Solo mi piacerebbe più rivedere i miei amici dal vivo, andare a scuola fisicamente. La voce di Alberto e la sua capacità di riassumere un bisogno comune a tutti gli studenti è il punto da cui ripartiamo in questa seconda parte di Diario di un giorno. Puntata interamente dedicata alla scuola e agli studenti con disabilità, perché per molti ragazzi con disabilità il lockdown ha significato completo isolamento, spesso regressioni dolorose e faticose per le famiglie che se ne sono dovute fare completamente carico. Antonella Falugiani è la presidente di Cordown e introduce tra i vari temi anche quello dell'esame di maturità. Questa pandemia ha sicuramente accentuato le disparità tra i cittadini e a maggior ragione questo è avvenuto se si parla di persone e studenti con disabilità. E così come la didattica a distanza non ha reso vita facile agli studenti, a maggior ragione agli studenti con disabilità e alle loro famiglie. La situazione a livello generale, tranne alcuni casi, è stata di grande disagio, oserei dire devastante. Abbiamo assistito tutti alle difficoltà nei collegamenti, all'assenza dell'insegnante di sostegno nelle ore di attività didattica, per cui nel migliore dei casi gli studenti con disabilità si collegavano con la classe per assistere al programma svolto per la classe, quindi non semplificato. È venuto a mancare quel supporto necessario affinché venisse garantito all'alunno con disabilità la continuità di un percorso scolastico, ma anche da un punto di vista emotivo e psicologico, perché dovremo tenere conto che gli alunni, anche i più fragili e con meno opportunità di socializzazione, per 80 giorni hanno perso il contatto con i compagni e si troveranno a gestire da soli, in presenza e davanti alla commissione, un esame di Stato. A Utilia Vigliano in campagna la referente di Cordown. Abbiamo dovuto distinguere due situazioni, quelle dei ragazzi, degli studenti che seguono una programmazione differenziata da quelli che seguono una programmazione per obiettivi minimi. Nel primo caso si è registrata una situazione che poi è un po' quello che si verifica anche nella realtà, cioè non a distanza, che molto spesso avendo una programmazione differenziata anche in questa situazione virtuale lo studente è stato poco coinvolto. E abbiamo registrato situazioni in cui lo studente o ha saltato completamente le lezioni sincrone o comunque ha fatto degli appuntamenti con qualche insegnante, soprattutto l'insegnante di sostegno, per svolgere un po' di lavoro insieme. Ma diciamo che questa è una situazione che è anche molto frequente, quello di far fare le cose un po' a parte, che è una situazione presente nella realtà. Per gli studenti invece che seguono una programmazione per obiettivi minimi c'è stata una maggiore esigenza di far svolgere anche allo studente con disabilità una parte del programma e qui l'intervento della famiglia è stato fondamentale e l'impegno delle famiglie si è praticamente raddoppiato. La situazione fotografata è simile in quasi tutte le parti d'Italia. Roberta Canonaco è presidente dell'associazione Punto e a Capo di Cosenza e sulla Calabria la fotografia è questa. Ho notato però che sicuramente ci sono delle falle perché ci sono variazioni di piattaforme tra un insegnante e un altro, che sono certa che un ragazzo con disabilità non riesca di continuo a seguire. Aggiungo inoltre che nel nostro territorio, al di là della disabilità, ci sono 12.000 studenti che non riescono a seguire la didattica a distanza e quindi da questo punto di vista penso che bisognerà, in attualità a settembre, ritornassero queste queste modalità, perfezionare o comunque puntualizzare delle linee guida che siano il più semplice per tutti quanti e provvedere anche poi ad evitare che ci sia questa dispersione scolastica. Il rischio adesso, al di là proprio di quello che avvertono i ragazzi, no? Di perdita di socialità, veramente ed è un timore reale che ci sia un'esclusione totale, cioè si perdano quei diritti conquistati negli anni, non solo per quanto riguarda l'inclusione, perché anche didatticamente non si tiene conto poi dei PEI, quindi comunque è una didattica molto generalizzata, no? Anche durante le spiegazioni questo non è possibile. Io penso che al di là della perdita poi della socialità, dell'inclusione che può derivarne, c'è un grosso rischio di dispersione per le persone con disabilità. Quindi non so come questo potrebbe essere risolto, ma io penso che dobbiamo fare in modo che non si perdano tutti i diritti conquistati in questi ultimi anni, sia per quanto riguarda la didattica, sia per quanto riguarda l'inclusione e la socialità delle persone con disabilità. Il dato complessivo, superata una certa fase emergenziale, sembra positivo su Milano, come ci spiega Rita Viotti, a capo dell'Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down. Io credo di dover distinguere quello che è un sentore delle prime settimane da quella che è la reale e oggettiva restituzione da parte delle famiglie dopo oltre 2 mesi di scuola a distanza. Perché questo? Forse perché in qualità del mio ruolo di presidente, in primissima battuta, in qualche modo sono entrata in contatto con le situazioni più critiche di famiglie che in qualche modo vedevano leso il proprio diritto, il diritto del proprio figlio ad entrare in una situazione educativa forte e presente. Ma devo anche aggiungere che in quei casi la situazione erano forse critiche, non già nello specifico per la persona con sindrome di Down, ma critiche per un contesto scuola non funzionante. Non più tardi di qualche settimana fa invece abbiamo deciso di cercare una restituzione un po' più oggettiva da parte delle famiglie che in qualche modo hanno affrontato questo periodo, e in qualche modo scoprendo che il giudizio complessivo relativo al supporto che è venuto dalla scuola è un giudizio positivo. Nell'80% dei casi, parliamo complessivamente di una 60ina di famiglie, ecco, vero è che non tutti ancora si sono espressi, ma insomma un buon 70% di queste famiglie ci ha raccontato la propria esperienza. E nell'80% dei casi, dicevo, il giudizio è positivo, anche molto positivo in una percentuale minimale. Quindi questo mi ha particolarmente colpita perché c'è stato un po' un riconoscere un impegno da parte della scuola e un progressivo miglioramento da parte di insegnanti di sostegno che hanno sostenuto la relazione in una classe, magari con ulteriore supporto in momenti individuali, e molto rari i casi di chi in qualche modo è stato completamente sottratto al percorso di una lezione collettiva. Certo, un discorso a parte forse andrebbe fatto per la primaria, ma è un discorso oggettivamente condiviso di una scuola che ha risposto non con delle video lezioni nella gran parte dei casi, quindi assegnando una mole di compiti che in qualche modo sono ricaduti sul genitore e sulla sua mediazione. Ecco, sì, questo è il peso in realtà fortemente sentito dai più. Almeno il 50% ha riconosciuto di dover aver esercitato un'azione di delega e di mediazione molto forte. E quindi vero è che c'è anche la convinzione che se ci fossero sessioni di training, tutorial adeguati per rendere quanto più autonomo possibile il ragazzo nel suo percorso di avvicinamento a queste tecnologie, la situazione potrebbe migliorare. Quindi a me particolarmente ha colpito questo riconoscere la fatica di un percorso che è stato condotto grazie a una mediazione molto forte, forte, ma anche il riconoscere come uno spazio possibile di miglioramento sia fornire ulteriori strumenti. E quindi il mio bilancio nel complesso, perlomeno per quella che è l'esperienza delle famiglie che ruotano intorno alla nostra associazione, resta un bilancio positivo. Ci fermiamo qui. Se volete scriverci e anche partecipare a distanza a questa puntata o sottoporci qualche altro spunto da approfondire, scrivete a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.